Avventurieri, purtroppo la prova non è stata superata, ma avete lottato con onore. I briganti hanno rubato le vostre forniture, ma il viaggio continua. E lungo il cammino troverete sicuramente un modo per ottenere nuove risorse. Quindi forza! Non abbattetevi, è il momento di rimettersi in marcia.